del nuovo invito che accetto sempre molto volentieri e senza indugio. Sì, fortunatamente anche l'anno scorso sono riuscito a fare questo incontro in presenza e dopo tante lezioni online avere qualche volto in carne ed ossa davanti mentre si parla è sempre una cosa bella. Come ricordava Margherita, questa è l'ultima tappa e quindi io, avendo letto le potenti sintesi che Margherita ci offre sempre dopo gli incontri, mi sono reso conto che davvero molto è già stato detto. Allora, come motiverò poi meglio tra poco, ho fatto la scelta di un approccio un po' particolare, nel senso che mi metterò soprattutto nella prospettiva, diciamo così, della storia e del metodo, ecco, per usare due termini che ci offrono un po' le coordinate in cui cercherò di muovermi, ma adesso cercherò di spiegare in che senso, ecco, farò riferimento alla storia e al metodo, visto che dal punto di vista, come dicevo, dei contenuti concreti non avrei saputo che cosa aggiungere, ecco, rispetto a chi mi ha preceduto. Introduco questa riflessione con un pensiero di un padre della Chiesa, un autore dei primi secoli, Cirillo di Gerusalemme, che in una sua opera scrive così: «La grazia dello Spirito è davvero necessaria se vogliamo trattare dello Spirito Santo, non perché possiamo parlare adeguatamente di Lui, cosa questa impossibile, ma perché possiamo passare attraverso questa materia senza danno». Ecco, mi sembrava interessante questo suggerimento di Cirillo di Gerusalemme. Se vogliamo parlare dello Spirito, ci dice, dobbiamo anzitutto lasciar parlare lo Spirito. Cioè, si tratta non tanto di spalancare subito le ali della nostra fantasia e della nostra immaginazione, ma si tratta di aprire gli occhi sui segni attraverso cui lo Spirito si dice a noi, si offre alla nostra esperienza, se possiamo usare questa parola. E senz'altro, è già stato sicuramente detto da chi mi ha preceduto, dobbiamo subito mettere in conto che sarà impossibile, ingabbiare la realtà profonda dello Spirito nelle nostre categorie, nei nostri ragionamenti. Questo però, se ci pensiamo bene, succede ogni volta che attraverso la conoscenza cerchiamo di cogliere non semplicemente una cosa, ma una persona. Credo che nessuno di noi può dire di conoscere completamente, adeguatamente, per usare l'avverbio di Cirillo di Gerusalemme, la realtà profonda, non dico del primo venuto, ecco, del primo che incontriamo per strada, ma neppure di un amico, di un fratello, di una sorella, di un padre o di una madre, di uno sposo o di una sposa, e in definitiva neanche la realtà profonda di se stessi. Ecco, rimane sempre, potremmo dire, un fondo che sfugge a qualunque presa, un fondo di cui non riusciamo ad impadronirci, perché è quella radice della libertà che fa di ogni persona appunto una persona, e quindi una realtà unica, che non è catturabile da nulla e da nessuno. Questo vale per ogni persona umana, quindi vale tanto più per lo Spirito Santo, che appartiene all'ambito della trascendenza di Dio. Ecco, quindi non stupisce, ecco, che sia impossibile per noi parlare adeguatamente dello Spirito, anche quando lo lasciamo parlare per primo. Tuttavia, come ci ha suggerito Cirillo di Gerusalemme, se lasciamo parlare lo Spirito, se apriamo gli occhi sui segni che lui ci dà della sua presenza, della sua azione, almeno riusciremo a parlarne senza danno. Naturalmente, in primo luogo, senza danno per lo Spirito, cioè meglio ancora per la conoscenza che siamo chiamati ad avere della sua identità, della sua azione. Ma poi dobbiamo aggiungere senza danni anche per noi, come singoli credenti e come Chiesa. Penso che non ci sia nessun'altra realtà nel cristianesimo più dello Spirito Santo che, se la si concepisce in maniera, diciamo, sfalsata, distorta, inadeguata, possa maggiormente compromettere sia l'equilibrio della nostra vita di fede, ma anche la buona qualità della comunità cristiana e della sua testimonianza. Quindi questo riferimento allo Spirito è un riferimento molto delicato, che dunque richiede una forte sensibilità per lo Spirito, appunto per non far danno. Ecco, allora, per questo ho scelto un approccio sia storico che di metodo, nel senso che in un primo momento cercherò di verificare, ovviamente in maniera molto veloce, molto approssimativa, visto i tempi che abbiamo a disposizione, cercherò di verificare il modo con cui, almeno nella nostra tradizione cattolica, tanto per rimanere, diciamo, in casa nostra, no? E non pretendere di mettere troppo il becco in casa degli altri, ecco, come in questa tradizione cattolica si è parlato, o forse ancora di più non si è parlato, dello Spirito, in maniera da renderci conto, o comunque almeno intuire, ecco, le ragioni delle potenzialità, ma anche delle difficoltà, no, dei limiti che oggi ci troviamo fra le mani a questo riguardo, su questo tema. In un secondo momento cercherò di indicare alcuni criteri di fondo che penso occorra tenere presenti se intendiamo parlare e fare esperienza in modo cristiano dello Spirito Santo. Sottolineo, in modo cristiano. Ecco. Appunto perché si tratta di non dimenticare che lo Spirito soffia dove vuole Lui, non dove vorremmo noi, in base alle nostre attese e magari anche alle nostre pretese. Ecco, allora inizio con il dire qualcosa sulla capacità o sulla incapacità di parlare dello Spirito Santo nella nostra tradizione cattolica. Se volessimo fare una battuta, potremmo dire che l'atteggiamento di tanti cattolici per quanto riguarda lo Spirito Santo, in fondo, è lo stesso di quei discepoli che Paolo trova ad Efeso, e che, secondo quanto ci racconta il libro degli Atti al capitolo 19, versetto 2, ad una precisa domanda di Paolo, questi discepoli rispondono: ma noi non abbiamo nemmeno sentito dire che ci sia uno Spirito Santo. Ecco, anche se continuiamo a fare il segno della croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, comunque lo Spirito di fatto sembra essere il grande assente nella consapevolezza di molti che pure si dichiarano cattolici. E quindi, prima di tutto, ho provato a chiedermi: ma quali sono le ragioni storiche che, non dico giustifichino, ma perlomeno spieghino questa dimenticanza, questa ignoranza, nel senso letterale del termine, no? Di chi ignora, di chi non conosce, no? È una dimenticanza che, o un'ignoranza che sorprende, no? Se noi guardiamo la cosa dal punto di vista dei principi biblici, dottrinali, teologici e tutto ciò che vogliamo. Ma è una dimenticanza barra ignoranza che si comprende se dai principi, appunto, passiamo dal punto di vista della storia concreta. Cioè del come sono andate veramente le cose, effettivamente le cose. Ecco, allora noi, se ci mettiamo nella prospettiva della storia, constatiamo che di fatto, in fondo, fin dagli inizi della Chiesa, si è sentita più o meno esplicitamente una certa difficoltà nei confronti dei cosiddetti movimenti spirituali, ossia nei confronti di quei gruppi, di quelle comunità che presumevano, pretendevano, dichiaravano di richiamarsi in maniera diversa, differente, ad una presenza, ad un'azione particolare, speciale dello Spirito Santo. E questi movimenti si formano a cominciare dai primi secoli, penso ad esempio al montanismo nel secondo secolo, dove in riferimento appunto a questa figura di Montano si vuole inaugurare l'era dello Spirito Santo, un'era basata sul rifiuto dell'autorità dei vescovi e sulla tendenziale negazione della Chiesa istituzionale. Poi questo fenomeno si ripresenta lungo il Medioevo, faccio riferimento ad esempio ai seguaci di Gioacchino da Fiore nel XIII secolo, un abate calabrese che fondò molti monasteri, e Gioacchino da Fiore annuncia e attende anche lui l'epoca dello spirito, caratterizzata da una chiesa di carismatici, anche qui contro l'aspetto istituzionale. Questi movimenti poi ancora si costituiscono dopo la Riforma, nel 1600, penso ad esempio ai movimenti battisti, prima in Gran Bretagna, poi negli Stati Uniti, movimenti che rivendicano una piena autonomia delle chiese locali e diciamo dichiarano un livellamento assoluto di tutti i membri del movimento, quindi senza nessuna differenza legata ad un ministero. Oppure, sempre in questo ambito, penso ai quaccheri, a George Fox, che fonda quella che lui chiama la Società di Amici in Inghilterra, che poi diciamo esportata nelle colonie americane, i quaccheri che diciamo professano una vita semplice che sia in accordo con quella luce interiore divina, così si riferiscono allo spirito, che splende appunto nel cuore di ciascun individuo. E infine, più recentemente, ritroviamo questi movimenti anche nel XX secolo. E in particolare ricordo le comunità pentecostali negli Stati Uniti. Ad esempio apparteneva a questo filone il presidente George W. Bush, che appunto si professava come un newborn Christian, un cristiano rinato, appunto perché le comunità pentecostali sottolineano l'esigenza di una seconda esperienza di conversione dopo il battesimo, un'esperienza in cui si viene trasformati, rinnovati grazie appunto ai doni dello Spirito Santo. Ecco, in tutti questi casi, che vedete mi sono limitato soltanto proprio ad accennare, perché altrimenti avrei dovuto dedicare tutto il mio intervento solo a entrare nel merito di queste realtà. Ecco, in tutti questi casi la grande Chiesa ancora unita nel primo millennio e poi anche le confessioni cristiane dopo la rottura del secondo millennio, ecco, hanno sempre considerato come disturbanti, se non esplicitamente pericolosi, no? Questi movimenti spirituali, soprattutto a causa degli eccessi di fanatismo, di entusiasmo o al limite anche di anarchia, no? Che queste realtà in effetti presentavano. E di fatto la conseguenza fu che si sentì sempre più forte l'esigenza di canalizzare, diciamo così, o addirittura di irregimentare, no? Di mettere a norma il riferimento all'azione dello spirito, proprio perché appunto si finì di considerare come tendenzialmente opposti o addirittura contrapposti il carisma e l'istituzione, la profezia e la tradizione, l'interiorità e le pratiche esteriori. Ecco, quindi questa diffidenza nei confronti dei movimenti spirituali portò ad una situazione in cui si è corso il rischio, e a volte non solo il rischio, di buttare via il bambino con l'acqua sporca, come si dice, no? Dove appunto in questo caso il bambino sarebbe lo spirito, no? La sua presenza, e l'acqua sporca, tra virgolette, sarebbero gli eccessi appunto di fanatismo, di ingovernabilità, no? Di cui parlavamo prima, che rivendicano di fondarsi appunto sulla sua presenza. E allora, buttare via il bambino con l'acqua sporca, in concreto, ha voluto dire sminuire o comunque minimizzare, in molti modi, l'azione dello spirito nella vita di fede ordinaria, appunto fino a provocarne la dimenticanza quasi totale, almeno restando nell'ambito, come ripeto, della nostra tradizione cattolica, perché poi appunto nell'ambito dell'ortodossia e delle chiese protestanti riformate bisognerebbe fare un discorso ancora diverso. Ecco, questa dimenticanza pratica dello spirito è collegata, ha un legame alla sua dimenticanza, tra virgolette, teorica, cioè alla sua dimenticanza nel campo della riflessione teologica, in particolare della cosiddetta dogmatica. E a questo proposito vorrei fare un paio di esempi che penso ci possano essere utili per capire. Il primo esempio lo prendo dalla cosiddetta dottrina della grazia. Naturalmente il tema della grazia, perlomeno se lo pensiamo, se lo consideriamo in prospettiva biblica, dovrebbe essere uno dei luoghi privilegiati per riflettere sulla missione appunto di salvezza, no, che lo Spirito svolge in unità con Cristo. Quando ad esempio Paolo, come vi avrà detto sicuramente la collega Chiara, parla della caris, no, della grazia, lo fa molto spesso in riferimento proprio all'azione del pneuma, no, l'azione dello spirito. E invece, se noi prendiamo in mano e sfogliamo un manuale classico di teologia, tra quelli usati fino alle soglie del Concilio Vaticano II, ci accorgiamo che dello Spirito Santo si parla pochissimo. E questo in particolare proprio in quello che veniva chiamato il Trattato de Grazia, no? Il Trattato sulla Grazia. In questo trattato si distingue puntigliosamente fra quella che viene chiamata la grazia increata, non creata, cioè appunto il dono dello Spirito, e la grazia creata, cioè gli effetti di salvezza, no, che questo dono dello Spirito produce, genera in chi lo accoglie. Quindi Ecco, in linea di principio si riconosce la necessità, no, di affermare un primato dello spirito come grazia increata rispetto alla grazia creata, cioè agli effetti dello spirito sull'uomo. Ma poi, di fatto, se noi appunto prendiamo in mano uno di questi manuali sulla grazia, ci accorgiamo che tutto il discorso si concentra sulla grazia creata, no? Cioè si concentra sugli effetti dell'azione dello spirito. Tanto che ad un certo punto si finisce di dimenticare che cosa esprima la realtà della grazia, cioè la relazione viva, vitale, fra noi e Gesù Cristo attraverso lo Spirito. Ed ecco allora che si riduce la grazia ad una cosa, ad una specie di dotazione per la salvezza, una cosa che mi serve per la salvezza, che mi viene data in cambio di determinate prestazioni, come ad esempio la partecipazione ai sacramenti, oppure la realizzazione di pratiche devozionali. Ecco, quasi che la grazia, questa cosa, no, che è diventata la grazia, fosse dentro una logica di contraccambio, no? Lo dico così banalmente, tu mi dai 5 messe e 3 via crucis, e io ti do mezzo chilo di grazia, ecco, da metterti da parte in vista della vita eterna. Perché poi appunto si trattava di morire in grazia. Ma in grazia nel senso senza aver perso questa dotazione della cosa grazia, per poterla presentare a Dio una volta appunto aver attraversato il passaggio della morte. Ecco allora un primo caso, direi clamoroso, no? In cui nella riflessione teologica del passato, un passato poi neanche così remotissimo, no? Perché appunto, fino alle soglie del Vaticano II, a parte alcune eccezioni, si faceva un discorso di questo tipo. Ecco, dicevo, un caso clamoroso in cui nella riflessione teologica, per dirla in maniera così delicata, si minimizza il ruolo dello Spirito, che viene affermato in linea di principio, no, la grazia increata, ma poi di fatto viene dimenticato, viene rimosso, messo da parte nello svolgimento effettivo del discorso. Ma c'è ancora un secondo caso, c'è ancora un secondo esempio che vorrei portare e che forse ci potrà lasciare ancora più stupiti. Intendo dire, se noi facciamo attenzione al modo con cui lungo la nostra tradizione cattolica si è riflettuto sul significato e sul posto della figura di Maria nella vita di fede, ecco, noi ci accorgiamo, magari con un po' di sorpresa, che progressivamente si è verificato un fenomeno particolare. Ossia, scopriamo che in determinate circostanze si è finito di attribuire a Maria titoli e ruoli che invece secondo la Bibbia, o secondo anche gli scritti dei padri dei primi secoli, in realtà sarebbero da attribuire allo Spirito Santo. Ecco, cito solo 3 casi, quelli che mi sembrano i più eclatanti. Prendiamo il titolo di Madre della Chiesa, che noi siamo abituati a riferire a Maria, anche nelle litanie mariane, cioè Madre della Chiesa, prega per noi. Ora, per gli scrittori orientali dei primi secoli, penso appunto alle riflessioni sullo spirito nella teologia siriaca, armena, autori come Afraate o Efrem il Siro, siamo più o meno nel IV secolo d.C. Ecco, per questi autori, madre della Chiesa è lo Spirito, perché è attraverso la sua azione che vengono generati i credenti in Gesù. E tra il resto non è poi così strano che venga riconosciuta allo Spirito una prerogativa femminile come la maternità, per il semplice motivo che nell'Antico Testamento, come sicuramente saprete o comunque chi mi ha preceduto ha detto, nell'Antico Testamento il termine ebraico per indicare lo Spirito è appunto un termine femminile, ruach. E quindi i padri orientali che comunque conoscono questa radice antico-testamentaria non hanno nessun problema ad attribuire allo Spirito, ruah, una caratteristica femminile, no? Come la maternità. Ma se vogliamo, è ancora più evidente un secondo caso, cioè l'attribuzione a Maria del titolo di avvocata, che troviamo anche nella Salve Regina. Avvocata nostra, salve. Ora, per il Vangelo di Giovanni è chiaro che l'avvocato dei credenti, quello che viene chiamato il Paraclito, il Paracletos, è esattamente lo Spirito Santo. Alla lettera, Paraclitos significa colui che è chiamato accanto ai credenti. D'altra parte anche il termine latino advocatus ha lo stesso significato, colui che è chiamato vicino, che è chiamato accanto, in questo caso accanto ai credenti, per prenderne le difese contro le accuse che vengono rivolte ai credenti proprio a motivo della loro fede nel Vangelo. Qui basta che leggiamo i capitoli 15-16 del Vangelo di Giovanni, in cui lo Spirito è presentato appunto come l'altro paraclito. Perché l'altro paraclito? Perché per Giovanni il primo avvocato dei credenti è Gesù Cristo. E, come dire, attraverso Gesù Cristo c'è il dono dell'altro paraclito che è lo Spirito. E quest'idea viene ripresa negli scritti giovannei, anche nella prima lettera di Giovanni. Ad esempio il capitolo 2, al versetto 1, si dice «Abbiamo un paraclito presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto». Quindi Gesù Cristo è il primo paraclito presso il Padre, a cui appunto si aggiunge l'altro paraclito che è lo Spirito. Ecco, qui siamo di fronte allora ad un altro esempio, no? che ci mette davanti ad una tendenza, diciamo così, a sovrapporre la figura di Maria sulla figura dello Spirito. Perché ad un certo momento questo titolo di Paracletos viene attribuito a Maria. E un ultimo caso potrebbe essere questo. Penso che tutti noi conosciamo l'adagio latino ad Iesum per Mariam, a Gesù attraverso Maria. Ora, se noi leggiamo attentamente il Nuovo Testamento, dovremmo concludere che questo detto sarebbe da riformulare in altri termini, cioè ad Iesum per Spiritum Sanctum, a Gesù attraverso lo Spirito Santo, non attraverso Maria. Per Paolo e Giovanni non c'è alcun dubbio su questo, c'è alcun dubbio sul fatto che è lo Spirito, è il pneuma a permetterci di entrare in comunione profonda con Gesù il Figlio. perché lo Spirito ci rende a nostra volta figli adottivi. E proprio così ci guida verso la verità tutta intera, che poi non è altro se non quella verità che Gesù ci mostra, e perché la attua nella sua vita, morte e risurrezione. Ecco, anche in questo caso vediamo questa tendenza, no? Diciamo così, a far slittare su Maria una funzione, un ruolo che invece andrebbe riferito allo Spirito, da un punto di vista biblico, neotestamentario. Forse perché Maria appare una figura più concreta e quindi può sembrare più facile spiegare a partire da lei, appunto come madre terrena di Gesù, la realtà di una mediazione richiesta fra noi e Cristo. Lo Spirito sembra più evanescente, ecco, Maria sembra una figura più a portata di mano. Però, come ci rendiamo conto, questo crea dei problemi non da poco. Perché è chiaro che la figura di Maria e la figura dello Spirito non possono essere così facilmente intercambiabili. Quindi, mi sono fermato su alcune pieghe, no, che ha preso la nostra tradizione occidentale, sia a livello di vissuto, sia a livello di teoria, pieghe che ci dicevano, che come dicevo, ci aiutano, se non a giustificare, almeno a spiegare il perché, no, di una certa dimenticanza, di una scarsa rilevanza dello Spirito Santo nella tradizione cattolica. Bisogna dire che questa dimenticanza, questa poca rilevanza dello Spirito, ha conosciuto una sua decisa inversione di rotta nel Novecento, in cui dobbiamo registrare una riscoperta, oggettivamente, della presenza e dell'azione dello Spirito un po' a tutti i livelli. Anche qui possiamo individuare delle ragioni, delle motivazioni storiche ben precise che spiegano questa inversione di rotta. Mi limito solo a fare anche qui un accenno veloce. Ecco, il Novecento è il secolo che, come sappiamo, è iniziato all'insegna dei tre grandi filoni di rinnovamento che hanno risvegliato, diciamo così, la vita e il pensiero della Chiesa, in particolare della Chiesa Cattolica. Mi riferisco anzitutto al rinnovamento patristico, che ha provocato un ritorno alle fonti cristiane antiche, no? agli scritti di quegli autori dei primi secoli, le cui testimonianze, i cui insegnamenti si presentano, come dire, imbevuti da un riferimento costante, ricchissimo, alla Bibbia. Cioè, a fronte appunto di una teologia che, almeno a partire dal Medioevo, marginalizza sempre di più il riferimento alla Bibbia, alla Scrittura, prendendo in mano i testi dei padri della Chiesa, troviamo citazioni della Scrittura a ogni piè sospinto. E questo, allora, tutto questo studio dei padri ha provocato di conseguenza l'esigenza di un rinnovamento biblico, cioè l'esigenza di rimettere, di ricollocare in primo piano la Bibbia come anima, per usare il termine che troviamo nella Dei Verbum del Concilio Vaticano II, la Bibbia come anima, cioè come criterio di ispirazione e criterio di verifica, di valutazione del vissuto della Chiesa e della stessa teologia, della stessa dottrina. E a questo rinnovamento biblico poi è molto legato il terzo dei grandi filoni che accennavo prima, cioè il rinnovamento liturgico, ecco, il rilancio della celebrazione del mistero di Cristo una celebrazione che potesse effettivamente coinvolgere e nutrire tutto il popolo di Dio. Il soggetto della liturgia è tutto il popolo di Dio, non soltanto appunto il clero che la presiede, che la celebra. Nel rito della messa di Pio V si parla del popolo di Dio come i circumstantes, no? Cioè coloro che stanno attorno al prete o al vescovo che celebra. Ecco. Un po' pochino, ecco, per definire, diciamo, la qualità effettiva della comunità coinvolta nella celebrazione come popolo di Dio, appunto. Quindi, ritorno ai padri, ricollocazione al centro della scrittura, rilancio della liturgia, sono stati i fattori che hanno permesso di riscoprire il ruolo di protagonista, non di semplice, diciamo, comparsa, che dovrebbe essere riconosciuto allo Spirito Santo. E questa nuova consapevolezza, senza dubbio, ha trovato la sua espressione più significativa, anche più autorevole, nel grande evento che ha segnato la Chiesa contemporanea, cioè l'evento del Concilio Vaticano II, che non a caso è stato indicato anche come l'affacciarsi appunto di una rinnovata primavera dello spirito in ambito cattolico. Dai documenti del Concilio direi che viene sottolineata in maniera insistente, fortissima, l'idea che bisogna riconoscere un legame molto stretto fra lo Spirito Santo e Gesù Cristo, anzitutto, poi la Chiesa, la salvezza dell'uomo. Se il riconoscimento di questo legame viene a mancare, l'equilibrio si rompe. Quindi si generano dei problemi notevoli, ecco, dei danni notevoli, per riprendere il termine di Cirillo di Gerusalemme, come dimostrano gli accenni storici che facevo prima. Cito a questo proposito, e concludo poi questa parte storica, un breve stralcio dell'intervento di un vescovo della Chiesa orientale, il metropolita Ignatius Hazim, che aveva avuto molto risonanza negli anni 60-70, quindi gli anni della celebrazione del Concilio. Ad un certo punto di questo suo discorso, il metropolita Hazim dice così: l'evento pasquale, compiuto una volta per sempre, come diviene nostro oggi? Per opera di colui che fin da principio e nella pienezza dei tempi ne è l'artefice, lo Spirito Santo. Egli, lo Spirito, è la novità in persona che opera nel mondo. Egli è la presenza del Dio con noi. Senza di Lui, Dio è lontano, il Cristo resta nel passato, il Vangelo è lettera morta, la Chiesa una semplice organizzazione, l'autorità una dominazione, la missione una propaganda, il culto un'evocazione, l'agire cristiano una morale da schiavi. Ecco, credo che questo breve passaggio, no, del discorso del metropolita Zim esprima bene quel clima rinnovato di sensibilità allo spirito che si è cominciato a respirare nella seconda metà del Novecento. E tra l'altro mi pare che in questa citazione troviamo quella che io considero una delle più belle definizioni dello Spirito Santo: la novità in persona che opera nel mondo. È un'affermazione durante il concilio? Durante un'assemblea della conferenza ecumenica delle chiese a Uppsala. Anno? Nel 68. 68. Me lo ricordo perché è l'anno in cui sono nato io. Quindi non potevo essere l'autore del discorso, quindi non è per questo che l'ho citato con questa enfasi. Sono al di sopra di ogni sospetto, in questo senso. Ripeti la definizione? Novità in persona? La novità in persona che opera nel mondo. E quindi appunto lo spirito come quella presenza che garantisce, che rende possibile, diciamo così, l'attualità, la contemporaneità di Gesù e della sua forza di trasformazione, di discernimento, di salvezza. Ecco, con questo riferimento al Concilio Vaticano II e appunto al rinnovamento teologico, dottrinale, no, che è scaturito da quell'evento, passo allora al secondo momento più breve, anche perché il tempo fugge, cioè il secondo momento in cui vorrei fare riferimento a qualche criterio, no, per parlare, per fare esperienza in modo cristiano dello Spirito Santo. E parto con una domanda un po' provocatoria, cioè davvero lo Spirito soffia dove vuole? Davvero, se interpretassimo così questa affermazione, sarebbe quindi impossibile individuare dei criteri per stabilire quando e dove è in azione lo Spirito Santo? Ecco, se le cose stessero così, no? Se interpretassimo quell'affermazione, che pure è di Giovanni, anche se Giovanni in quel passaggio di per sé non dice proprio che lo Spirito soffia dove vuole, dice che il vento soffia dove vuole, ne senti la voce, ma non sai di dove viene e di dove va. Così è colui che è nato dallo Spirito, dice Giovanni. Quindi non è immediatamente riferito allo Spirito. Comunque, mi pare legittimo anche riferirlo allo Spirito. Ma questa affermazione però, appunto, significa che l'azione dello Spirito è arbitraria. Se fosse così, non saremmo più in grado di stabilire la differenza, che so io, tra l'entusiasmo e l'invasamento, tra la profezia e la fantasticazione, al limite anche tra i carismi e le nostre fissazioni, ecco, che sono due cose diverse. Certo, se dicendo che lo Spirito soffia dove vuole, intendiamo dire che la sua presenza e la sua azione non si lasciano ingabbiare dentro gli schemi, dentro le prospettive che costruiamo noi, a partire dai nostri ragionamenti, dalle nostre attese, allora su questo non c'è niente da eccepire, no? Non c'è niente da contestare. La libertà dello Spirito Santo è la libertà di Dio, quindi per nostra fortuna è una libertà che sta prima e sta oltre ogni nostro schema e ogni nostra prospettiva. E tuttavia, ecco, è chiaro, se questa libertà noi la concepissimo come puro arbitrio, come un poter fare indifferentemente tutto il contrario di tutto, beh, una libertà intesa così non sarebbe certamente degna dell'uomo. E quindi a maggior ragione non sarebbe degna di Dio. La libertà di Dio non è la libertà del puro arbitrio. E quindi è ragionevole aspettarsi che lo Spirito Santo nella sua libertà si dia e ci dia dei criteri, no? Dei punti di riferimento per valutare l'autenticità della sua presenza, della sua azione. tento di ridurre questi criteri a due, che mi sembrano, diciamo, i più importanti. In primo luogo, riconoscere la centralità del riferimento alla storia di Gesù Cristo. Primo criterio. Secondo criterio, accettare quella che chiamo la inevitabilità di una qualche forma di rapporto con l'istituzione ecclesiale. Cerco di esplicitare un po' questi due criteri di fondo. Inizio dal primo, accettare la centralità del riferimento alla storia di Gesù. Parlare di centralità significa riconoscere che non può esistere un discorso o, prima ancora, un'esperienza cristiana dello Spirito che non abbia come suo centro il rimando a Gesù. Cioè che non parta da Gesù e non ritorni a Lui, in qualche modo. Questa è la conseguenza del fatto che noi riconosciamo Gesù, in Gesù il donarsi, il darsi definitivo, insuperabile, della realtà di Dio. Per cui parlare, fare esperienza in maniera autentica dello Spirito Santo richiede di misurarsi su come Gesù a sua volta ha parlato e ha fatto esperienza dello Spirito in tutta la sua vicenda terrena fino al momento culminante della Pasqua. Ricordiamo la risposta che Gesù dà a Filippo, il quale, secondo il racconto di Giovanni, nell'ambito di quelli che vengono chiamati i discorsi dell'addio, si rivolge a Gesù dicendo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù gli risponde, Giovanni 14, 8, 11, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Ecco, appunto, non c'è nessun oltre rispetto alla storia di Gesù in cui si debba o si possa cercare una presenza più ricca, più completa, più piena del Padre. E la stessa cosa vale anche per lo Spirito. A mio avviso si potrebbe parafrasare la risposta di Gesù dicendo: chi ha visto me ha visto lo Spirito. Non solo ha visto il Padre, ma anche ha visto lo Spirito. E quindi, se voglio capire chi è, che cosa fa lo Spirito Santo, io, diciamo così, devo guardare anzitutto alla Pasqua, non subito alla Pentecoste. Certo, la Pentecoste mi farà intuire che lo Spirito è una presenza che ha una sua relativa autonomia, mi confermerà che lo Spirito non è solo una forza, una potenza impersonale, ma ha una sua personalità che è distinguibile rispetto a quella del Figlio Gesù. E tuttavia, se voglio sapere come e perché quella presenza opera, allora per prima cosa dovrò comprendere bene la Pasqua di Cristo. Cioè dovrò comprendere bene la vita, la morte e la resurrezione di Gesù, in quanto è lì che lo Spirito entra in azione e anche chiarisce il senso della sua presenza. Quindi noi non sappiamo dove e come soffi lo Spirito se non lo impariamo da Gesù Cristo. Fuori dal riferimento a Gesù non c'è più chiarezza. Casomai c'è qualcosa che ha bisogno di essere chiarito. Appunto, a partire da Cristo, in riferimento a Cristo. Proprio perché la vita spirituale per eccellenza è quella di Gesù. E quindi, se vogliamo capire fino in fondo che cosa significhi, come dice Paolo, camminare secondo lo Spirito o lasciarsi guidare dallo Spirito, noi dobbiamo fissare lo sguardo su Gesù, proprio perché è Lui che più di ogni altro si è abbeverato, no, alla sorgente dello Spirito Santo, e che proprio per questo ha potuto esaudire il desiderio di vivere in pienezza, risorgendo dai morti. Ecco perché Paolo, nel capitolo 5 della lettera ai Galati, scrive che, 5:24, in definitiva la vita secondo lo Spirito coincide con la vita di quelli che sono di Cristo Gesù. Quindi è la forma, è la figura che cercano di dare alla propria vita tutti coloro che sono davvero in comunione con Gesù. Tutti coloro che condividono o cercano di condividere l'esperienza cristiana, cioè l'esperienza che si configura a partire dal riferimento a Gesù Cristo. Ecco allora il criterio fondamentale, cioè il riferimento centrale a Gesù. A questo punto, vado all'ultima parte, il secondo criterio che avevo espresso in questo modo è riconoscere l'inevitabilità di una qualche modalità di rapporto con l'istituzione ecclesiale. Vedete come vado cauto, no? Cioè, su Gesù ho detto subito la centralità, ecco, la necessità. Qui dico l'inevitabilità di un qualche rapporto con l'istituzione ecclesiale. Ma se ci pensiamo bene, in fondo questo criterio in pratica l'abbiamo già fatto funzionare, quando, parlando del confronto con Gesù, abbiamo dovuto per forza di cose chiamare in causa il Nuovo Testamento, in particolare i Vangeli o le lettere di Paolo. Appunto, la Bibbia in realtà fa parte di quella che chiamo l'istituzione ecclesiale. Quando parlo di istituzione ecclesiale non mi riferisco soltanto al Papa, ai Vescovi, ai Preti, eccetera. No. La Bibbia fa parte dell'istituzione ecclesiale, cioè fa parte, potremmo dire, di quegli strumenti, uso questo termine tra molte virgolette, perché non è del tutto adeguato, ma può essere utile per capirci, fa parte di quegli strumenti della Chiesa che stanno a servizio dell'incontro concreto con l'evento di Gesù. E quindi rendono possibile questo incontro per chi come noi è venuto dopo all'evento di Gesù Cristo. Non è contemporaneo all'evento di Gesù. E oltre alla scrittura, allora fanno parte dell'istituzione ecclesiale anche la liturgia, i sacramenti, il ministero ordinato, certo, ma anche quello laicale. Dell'istituzione ecclesiale fanno parte anche le forme organizzate di presenza e di testimonianza dei religiosi e dei laici. Ecco, siccome in concreto non si può parlare e fare esperienza di Gesù Cristo senza entrare in qualche modo in rapporto con questi strumenti ecclesiali, di conseguenza, appunto, non si può parlare e fare esperienza dello Spirito in modo cristiano senza entrare in qualche modo in rapporto con questi strumenti. Ecco perché in linea di principio, sottolineo in linea di principio, non c'è da mettere in conto una opposizione tra lo Spirito Santo e l'istituzione ecclesiale, nei diversi aspetti. Questo, se vogliamo, è il limite più evidente di quei movimenti spirituali di cui parlavo all'inizio della mia conversazione. Cioè, immaginare che vi sia una contrapposizione di principio tra lo Spirito Santo e l'istituzione ecclesiale. Ma, in realtà, appunto, lo Spirito Santo, proprio in quanto Spirito di Gesù, non soffia nel vuoto, soffia, si dona anche grazie alla mediazione di quegli strumenti a cui mi riferivo poco fa, che d'altra parte sono già a loro volta frutto della sua azione, se noi ci mettiamo da un punto di vista teologico cristiano. Ecco perché dico che il rapporto con l'istituzione della Chiesa è inevitabile. Non uso il termine necessario, uso il termine inevitabile, cioè non evitabile, nel senso che se si evita completamente questo rapporto, viene a mancare il riscontro per verificare l'autenticità o meno di qualunque discorso e di qualunque esperienza dello Spirito di Dio nella prospettiva cristiana. Questo, lo ribadisco, non significa che lo Spirito non sia già da sempre all'opera nelle persone, nelle culture e anche nelle religioni, ben oltre i confini della comunità cristiana. Questo lo scrisse addirittura Giovanni Paolo II nell'enciclica Redemptoris Missio, appunto quella dedicata alla missione, al numero 28. Su questo punto Giovanni Paolo II va oltre il Concilio, perché afferma esplicitamente che lo Spirito Santo agisce non solo nel cuore delle persone, ma anche appunto nelle sue istituzioni, nelle loro istituzioni, comprese le religioni. Tuttavia, ecco, questa opera dello Spirito, ecco, può venire, diciamo così, autenticata solo se in concreto si realizza una qualche forma di incontro con l'istituzione ecclesiale. Appunto perché l'istituzione ecclesiale, quindi la Bibbia, i sacramenti, la comunità, eccetera, è la compagnia della testimonianza, cioè è la compagnia che custodisce, ripresenta la memoria viva di Gesù Cristo, cioè di colui che, secondo Giovanni, dà lo Spirito senza misura. Se ci pensiamo bene, questo è anche il motivo che giustifica l'evangelizzazione e la missione come compito irrinunciabile per la comunità cristiana. È un compito che non potrà mai essere sostituito da nessuna pretesa e ricerca di egemonia politica e da nessuna imposizione di valori non negoziabili. Non è questo il compito della Chiesa. Il compito della Chiesa è rendere accessibile l'incontro con l'evento di Gesù e quindi con il dono senza misura dello Spirito che quell'incontro ci mette a disposizione. Questo ovviamente, l'approfondimento di questo ci porterebbe troppo lontano, io invece mi fermo qui, e tanto per essere in sintonia con uno dei frutti più significativi della riscoperta dello Spirito Santo nel Novecento, cioè il frutto dell'apertura ecumenica, affido la conclusione di questa mia conversazione al padre della riforma protestante, Martin Lutero, il quale in un suo testo scriveva così: l'azione dello Spirito bisogna sperimentarla, provarla, sentirla, ed è facendo questa esperienza che si è alla scuola dello Spirito Santo. Se non si passa attraverso questa esperienza, le parole rimangono parole. Ed è bene che ce lo ricordiamo al termine di una riflessione, cioè inevitabilmente al termine di una quantità di parole sullo Spirito Santo. Grazie. Grazie a te, Duilio. Relazione favolosa. Gli chiediamo anche il testo scritto, Dario? So già che lui ce lo manderà. Margherita si era dimenticata di dire che nell'intervallo